GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'omicidio di Gemona, piena confessione da parte della madre della vittima, Lorena Venier, che avrebbe agito assieme alla compagna del figlio. Il ruolo della madre, l'alleanza femminile, delusioni e rancori covati per anni e sfociati nell'efferato delitto. L'analisi della criminologa Roberta Bruzzone sull'omicidio di Gemona. Per domani si prevede un altro sabato da bollino nero sulla A4, probabili code che potrebbero concentrarsi in prossimità degli svincoli in direzione mare. Domenica giornata da bollino giallo. In carica da oggi la neorettrice dell'Università di Trieste, Donata Vianelli. Ricerca, semplificazione amministrativa e fondi europei tra le priorità del suo programma. Un sabato di temporale e una domenica di nuovo serena, ma per il ritorno del caldo bisognerà attendere la prossima settimana. Le previsioni per il weekend dell'ARPA regionale. A Pordenone in 400 al presidio per la Palestina, una manifestazione promossa dall'associazione Il Bene Comune in Piazza della Motta sotto la sede degli industriali. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Ha confessato già ieri sera nel primo interrogatorio di garanzia Lorena Venier, la madre di Alessandro, 35 anni. Ha spiegato il movente del delitto in un contesto familiare devastato dal rapporto con la vittima che da tempo avrebbe manifestato comportamenti violenti. Ho compiuto un gesto mostruoso, fuori natura, ha detto la donna. Ancora da chiarire il ruolo della compagna. La figlia che non ho mai avuto, ha dichiarato al legale la madre di Venier. L'interrogatorio a Marilyn Castro Monsalvo, la donna di 30 anni di origini colombiane, è stato intanto rinviato. Ho commesso una cosa mostruosa, queste le parole pronunciate da Lorena Venier davanti al PM ieri sera in procura a Udine, ha parlato per 2 ore e poi è stata trasferita a mezzanotte nella sezione femminile del carcere del Coroneo. Ha parlato in modo lucido e chiaro, fornendo dettagli di quanto accaduto. Lorena Venier, 62 anni, reo confessa per la morte del figlio Alessandro, 35. Lo ha ucciso, tagliato a pezzi e messo in un bidone dell'immondizia. Avrebbe agito assieme alla compagna di lui, la colombiana Maeli Castro Consalvo, 30 anni. Vivevano tutti e tre assieme nella villetta di Gemona. La figlia che non ho mai avuto, ha detto della Maeli Lorena, sintomo di sintonia e complicità tra di loro. Lorena è infermiera stimata che da sola ha cresciuto Alessandro, figlio mai riconosciuto di un uomo egiziano. Una situazione difficile e complessa, si viveva in casa. Alessandro non lavorava, sembra fosse violento e bevesse. Di fatto a sostenere la famiglia solo Lorena, infermiera caposala da molti anni all'ospedale di Gemona. I colleghi la descrivono come una professionista seria, sensibile con i pazienti, un punto di riferimento anche per la direzione. In questi giorni lavorava. L'omicidio sarebbe avvenuto il 25 luglio. Sentiamo l'avvocato di Lorena, Giovanni De Nardo. Avvocato, ha dato la sua versione dei fatti, Lorena? Ampia versione dei fatti. Ha spiegato le modalità, ha spiegato anche il movente che l'avrebbe determinata, visibilmente scossa e consapevole che quello che ha fatto è qualcosa di innaturale, di mostruoso, ma ha spiegato il perché. Questo perché verrà approfondito e sarà, credo, l'elemento principale di questo processo. Che rapporto c'è tra le due donne? Ma c'era un rapporto assolutamente amichevole, anzi, di più, avrebbe detto, insomma, che era la figlia che non ha mai avuto, quindi era un rapporto straordinario, così anche con la piccolina di 6 mesi, insomma, questa è la versione che ha dato. Che vita c'era là dentro? Che condizioni viveva la famiglia? Non posso esprimermi in questo, ha spiegato anche qual era il contesto familiare, l'ha spiegato e credo che verrà approfondito, anzi dovrà essere approfondito. Le modalità dell'omicidio? Le modalità dell'omicidio sono state riferite, non le posso dire in questa sede, ma ha affrontato anche questo argomento. Questa cosa dei farmaci, il ragazzo avrebbe assunto dei farmaci dati da loro? Non confermo, la signora ha ammesso le responsabilità che le sono state contestate, ha risposto a tutte le domande, più di questo non posso dire. Ha avuto delle parole per la propria nipote, adesso non si sa che fine. Assolutamente, ovviamente la preoccupazione principale è di questa bambina, avrebbe anche espresso il desiderio ovviamente di poterla rivedere, pur consapevole che allo stato sia assolutamente impossibile. Le due donne hanno agito insieme? Non è stata affrontata la responsabilità di nessun altro soggetto, quindi non mi esprimo. Non ha parlato di intervento di altri soggetti. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un omicidio anomalo avvenuto in ambito familiare, in cui colpisce non solo il coinvolgimento di una madre, ma anche l'alleanza femminile che si è venuta a creare con la compagna della vittima. Per la criminologa Roberta Bruzzone sono ipotizzabili una delusione e un rancore covati per anni e sfociati in questo efferato delitto. Sono due gli elementi che colpiscono in questa storia. Il primo è che a uccidere o perlomeno a collaborare in qualche modo all'omicidio sia stata una madre che nell'immaginario collettivo dovrebbe al contrario essere disposta a sacrificare se stessa per un figlio. Possiamo ipotizzare abbia deluso le sue aspettative, probabilmente a un certo punto ha ritenuto che non fosse più degno di tutti i sacrifici che lei ha affrontato per metterlo al mondo da sola e per gestire tutto quello che ne è conseguito, abbia scatenato un rancore magari che ha covato per diversi anni e che poi, complice una situazione che era diventata turbolenta e sempre più instabile, si è sfociata poi nella decisione purtroppo scellerata di eliminare quest'uomo. Il secondo è un'alleanza fuori dai soliti schemi tra suocera e nuora. C'è un'alleanza femminile così anomala perché probabilmente c'è una figura maschile particolarmente problematica. Quando si alleano due figure che normalmente, almeno negli aneddoti più diffusi, difficilmente trovano un'alleanza così particolare, e vuol dire che probabilmente all'interno di quell'abitazione quest'uomo rappresentava un grosso problema per entrambe, un problema che peraltro si era acuito dopo la nascita del bambino. In questo scenario la dottoressa Bruzzone respinge la possibile osservazione sul diverso approccio usato nell'esaminare i femminicidi. I femminicidi commessi da uomini sono femminicidi dove l'impronta del possesso e del controllo la fa da padrona, e che quindi sono femminicidi commessi proprio con l'idea di esercitare un controllo assoluto e irreversibile sulla vita di una donna. Solitamente quando sono le donne a uccidere, poi qualche rara eccezione ce l'abbiamo anche lì, ma solitamente quando sono le donne a uccidere gli uomini, di solito sono donne che a loro volta hanno subito enormi maltrattamenti, vessazioni in maniera piuttosto, diciamo, corposa, e arrivano alla decisione di uccidere perché temono che non ci sia un'altra soluzione per salvarsi a loro volta. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora torniamo all'appello di Martina Opelli per una legge sul fine vita, fatto ieri poco prima di accedere al suicidio assistito in una clinica in Svizzera. Dopo i 3 dinieghi da parte di Asugi, la triestina affetta da sclerosi multipla da 20 anni è stata accompagnata da Claudio Stellari e Matteo D'Angelo, volontari di Soccorso Civile, l'associazione per le disobbedienze civili sul fine vita, di cui è responsabile legale Marco Cappato, con l'aiuto di altre 31 persone. Tra poco al Caffè San Marco a Trieste si terrà una conferenza stampa dell'associazione Luca Coscioni, di cui Cappato è il tesoriere. Presente anche Felicetta Maltese, già imputata in un altro procedimento che ha fornito aiuto logistico. Cambiamo argomento. Quello di domani sarà il secondo sabato da Bollino Nero lungo l'autostrada A4, in particolare per chi viaggia in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio. Autostrada Alto Adriatico prevede il transito nella singola giornata di circa 190.000 veicoli complessivi lungo l'intera rete di propria competenza. Probabili code potrebbero concentrarsi in prossimità degli svincoli in direzione mare, nel tratto a due corsie tra San Donà e Portogruaro e all'uscita della barriera di Trieste-Lisert, dove è atteso il passaggio di quasi 23.000 mezzi, a cui sono da aggiungersi i 16.000 previsti alla barriera di Villessa Gorizia per chi, diretto verso la Slovenia e la Croazia, opterà per il bypass della A34. Sull'andamento dei transiti potrebbe però incidere il maltempo, come già accaduto nella mattinata di sabato scorso. La concessionaria autostradale schiererà circa 300 operatori, nonché tecnici reperibili e personale del soccorso sanitario e meccanico. Domenica sarà una giornata invece da bollino giallo, traffico sostenuto, sempre sulla A4 e sempre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio e in direzione Venezia al pomeriggio. È previsto il transito di circa 164.000 mezzi. Una questura aperta ai cittadini, questo è il proposito espresso dal nuovo questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, appena insediatosi dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Prato. Il primo impegno importante, ha spiegato, sarà la sfida di Supercoppa Europea allo Stadio Friuli del 13 agosto. Una polizia di prossimità, una questura aperta ai cittadini con il massimo impegno nell'attività di prevenzione e di controllo del territorio. Sono le linee guida del nuovo questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, che ha appena assunto l'incarico in città. Il cittadino deve sentirsi, diciamo, non in antitesi con la divisa, ma sicuramente una parte integrante e integrata con la divisa per poter affrontare quella che può essere un problema di un quartiere, di una collettività, ma anche del singolo. Nato a Foggia, 60 anni a fine agosto, da 35 nella polizia, ha lavorato a lungo a Napoli. De Lorenzo ha ricoperto diversi incarichi investigativi che lo hanno visto impegnato nella lotta contro la camorra. Negli ultimi due anni è stato questore a Prato. Aggressioni, truffe, minori non accompagnati sono i problemi principali che dovrà affrontare nell'ambito della sicurezza a Udine. Farò una full immersion per cercare di sanare o di individuare al più presto quelle che potrebbero essere le aree di crisi o quelle con i d'ombra che esistono in ogni comune. Il primo impegno rilevante è già il 13 agosto con la finale di Supercoppa Europea che si giocherà allo Stadio Friuli, con tutte le difficoltà legate alla gestione delle diverse tifoserie. Sicuramente un evento che richiede un'attenzione massima, essendo la prima volta l'Italia coinvolta in una finale di Supercoppa Europea, dove richiamerà di sicuro più di 10.000 sostenitori complessivamente tra le due parti. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passaggio di consegne oggi all'Ateneo Giuliano. A Roberto Di Lenarda è subentrata la nuova rettrice dell'Università di Trieste, Donata Vianelli, che punta per il suo programma sulla ricerca, sulla semplificazione amministrativa e su una comunità coesa che condivide gli obiettivi. Il nuovo prorettore è Mauro Tretiak, professore ordinario di Botanica Generale. Si presenta con un sorriso raggiante Donata Vianelli, direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche e ora la 16ª massima autorità dell'Ateneo Triestino, e soddisfatta di essere la prima rettrice donna in 100 anni di storia dell'università. In questo modo anche possiamo dimostrare che le competenze, la leadership e anche la voglia di lavorare proprio per l'istituzione, far crescere una grande istituzione come è l'Università di Trieste, c'è anche proprio nelle donne. Stiamo cercando di dare un bel contributo, poi io ritengo sempre che la differenza va fatta sul merito. La nuova rettrice guiderà un ateneo che negli ultimi 6 anni ha rafforzato il suo ruolo nel mondo accademico e nella città, anche grazie ai finanziamenti pubblici PNRR che stanno per esaurirsi. Ecco i suoi obiettivi: far crescere la ricerca ancora di più. Saranno la semplificazione amministrativa e una anche organizzazione che supporti una strategia e una visione molto chiara. Le sfide da affrontare saranno tanti, ma se la comunità sarà unita saprà fare le scelte migliori anche nelle difficoltà. Quindi io guardo il futuro con molto ottimismo. E di una comunità accademica coesa che ha saputo affrontare momenti anche molto duri come il Covid e condividere gli obiettivi ha parlato anche l'ex rettore Roberto Di Lenarda. Siamo in una situazione di forza, ha detto, pronti per il salto di qualità. Oggi sono 25 anni che sono direttore della clinica di chirurgia maxillofaciale e odontostomatologia. Ero bambino quando sono diventato direttore. È simbolico forse finire un periodo di 6 anni di direzione di dipartimento e 6 anni di direttore. Torno alla mia professione, ai miei pazienti, ai miei studenti a fare di nuovo ricerca, e credo che la libertà che mi è data a sapere di tornare a fare il mio mestiere sia stata di straordinaria importanza in questi anni. Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso, su pianura e costa, più coperto sui monti, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 26 gradi, a Gorizia e a Udine 26 gradi, a Pordenone 25, a Tolmezzo 22, a Tarvisio 20, a Forni di Sopra 19, a Sappada 16, a Piancavallo 15, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 12 gradi, a Lignano 26, a Grado 24, in entrambe le località la temperatura del mare è di 25 gradi. Meteo in evoluzione nelle prossime ore, ma per le previsioni sentiamo Sergio Nordio dell'ARPA regionale. Per quanto riguarda il tempo nel fine settimana, incominciamo con un primo fronte temporalesco in passaggio sulla regione oggi pomeriggio, che interesserà sia la montagna che parti della pianura, con dei temporali sparsi. Non è escluso che qualcuno possa interessare anche la costa, più probabilmente quella verso il Veneto, meno probabile verso Trieste. Dopodiché ci sarà una pausa in serata, nella serata di oggi, e poi domani arriverà un'altra perturbazione che determinerà tempo molto incerto per la giornata di domani, che vedrà una forte variabilità con rovesci temporali sparsi alternati a fasi di tempo migliore. Questa fase appunto sarà piuttosto lunga e durerà tutte le 24 ore. Con domenica arriverà la bora, una bora che porterà aria più secca e un miglioramento, per cui domenica cielo in genere poco nuvoloso variabile, però è possibile che nel pomeriggio, dato che in quota l'aria sarà decisamente fresca, si sviluppi qualche isolato rovescio temporale, ma di carattere veramente locale. Dopodiché lunedì variabilità, il tutto con temperature ancora leggermente sotto la norma, dopodiché da metà settimana il tempo si stabilizza e poi probabilmente andando più avanti ritornerà anche il caldo verso il fine della prossima settimana. Le previsioni erano di Marcellino Salvador del Osmer ARPA regionale. Investimento da 5 milioni di euro da parte di Friulia per lo sviluppo di Caffaro Industrie di Tor Viscosa, che opera nel settore della chimica fine, producendo diverse tipologie di composti per l'industria farmaceutica, agrochimica, colle, vernici, solventi e poliuretani. La società fa parte del gruppo SNIA, primario player italiano nel settore della chimica a conduzione familiare. Lo stabilimento è composto da 30 reattori, 25 colonne di distillazione e rettifica e oltre 70 apparecchiature accessorie, e si estende per oltre 400.000 metri quadri. All'interno sono impiegati oltre 170 dipendenti e si producono più di 10.000 tonnellate all'anno di prodotti chimici, soprattutto chetoni e carbonati organici utilizzati nell'industria farmaceutica e della plastica. L'azienda ha una vocazione internazionale con oltre il 40% della produzione destinata all'export. In Friuli Venezia Giulia sono stati poco più di 5.360 i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità dell'assegno di inclusione. L'importo medio mensile è stato pari a 608 euro, inferiore alla media nazionale. A dirlo è l'INPS nel suo ultimo rapporto. Nel primo semestre del 2025 l'ADI ha raggiunto a livello nazionale 868.000 nuclei familiari, coinvolgendo oltre 2 milioni di persone. L'importo medio mensile è stato pari a 669 euro. Il 73% dei beneficiari si concentra nel centro-sud. A giugno i nuclei percettori sono stati circa 666.000. Il supporto per la formazione e il lavoro ha interessato finora 182.000 persone, in prevalenza donne e over 50. Dal 2025 l'importo mensile è stato innalzato da 350 a 500 euro e sono stati rivisti i requisiti ISEE per l'accesso. In Friuli Venezia Giulia il numero di beneficiari è più contenuto rispetto alla media nazionale. I dati regionali riflettono l'andamento nazionale con una distribuzione che coinvolge principalmente soggetti disoccupati in età attiva. Nel primo semestre 2025 sono stati 5.362 i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno una mensilità dell'ADI, per un totale di 8.704 persone coinvolte. L'importo medio mensile in regione si è attestato a 608 euro, circa 60 euro in meno rispetto alla media nazionale. A giugno i nuclei percettori in Friuli Venezia Giulia sono stati 4.667, per un totale di 7.437 persone. L'importo di giugno si è fermato a 558 euro, sotto i 694 euro della media nazionale. Il supporto per la formazione e il lavoro invece ha raggiunto in regione 600 nuclei nel primo semestre dell'anno, con una media di 3,2 mensilità erogate. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oltre 400 persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di ieri alla manifestazione per la Palestina che si è svolta a Pordenone. In piazza della Motta e sotto la sede degli industriali, 5 minuti di silenzio e i teli bianchi in solidarietà al popolo di Gaza. Un flash mob silenzioso con teli bianchi a rappresentare una sorta di sudario per le vittime di Gaza. La manifestazione per la Palestina, promossa dalla lista Civica Bene Comune, ha visto ieri sera in piazza della Motta a Pordenone la partecipazione di quasi 500 persone. Nessuna bandiera di partito, come chiesto dagli organizzatori, ma la presenza silenziosa di cittadine e cittadini contro quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. Di fronte all'ex convento di San Francesco, i corpi dei manifestanti stesi su lenzuoli bianchi. Un altro cordone umano si è disposto sotto Palazzo Clefish, sede di rappresentanza di Confindustria Alto Adriatico, dove non campeggia più la bandiera di Israele, che era stato il motivo del luogo scelto per il presidio. La bandiera era lì dal 7 ottobre, ha scritto in una lettera aperta al presidente degli industriali Michelangelo Grusti, e non è stata rimossa su richiesta di qualcuno, ma solo per non offrire il fianco ai contestatori, e aggiunge che tornerà dov'era quando la guerra sarà finita. Al presidio non si sono registrate tensioni, al megafono solo alla fine le frasi "restiamo umani" e "Palestina libera". Vogliamo che questa sia l'inizio di una campagna che accende i riflettori sul genocidio in corso a Gaza, spiegano gli organizzatori, facendo sentire la voce dei cittadini e delle cittadine di Pordenone che non ci stanno e che prendono posizione. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia sempre più automobilisti scelgono il mercato dell'usato non solo per risparmiare ma anche per accedere a modelli recenti, ben accessoriati e spesso di categoria superiore, il tutto senza superare il proprio budget. A confermarlo i dati ACI elaborati da Autoscout24. Nel primo semestre del 2025 i passaggi di proprietà in Friuli Venezia Giulia sono stati 33.462, in crescita del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel primo semestre del 2025 il prezzo medio delle auto in vendita registra un calo del 9,8% rispetto ai primi sei mesi del 2024, attestandosi intorno ai 21.000 euro. Nella regione, diesel con il 60% e benzina con il 27,2% sono sempre le alimentazioni più ricercate, mentre l'elettrico con l'1,6% non riesce a entrare nelle preferenze dei corregionali, perché spesso non si adatta alle abitudini di guida quotidiane e continua a sollevare dubbi tra molti automobilisti. Tra i limiti più citati ci sono l'autonomia ancora insufficiente, i costi elevati, la diffidenza verso una tecnologia percepita come non del tutto matura e una rete di ricarica che in molte aree risulta ancora poco capillare. La cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone ha un nuovo presidente, Cristiano Cozzolino, 50 anni, per 20 anni presidente di Libra Cooperativa Sociale e per 8 presidente delle ACLI provinciali di Trieste, dirigente esperto in direzione aziendale, controllo di gestione e sistemi informativi, attivo anche in ambito sociale, agricolo e formativo. Cozzolino succede a Giancarlo Carena, storico presidente che ha guidato la cooperativa per molti decenni, avviando iniziative originali come la rassegna Rose, libri, musica, vino, che si tiene ogni venerdì di maggio nel Roseto del Parco di San Giovanni a Trieste. Palapineta tutto esaurito ieri agli incontri con l'autore e con il vino, la rassegna promossa dall'associazione Lignano nel terzo millennio. Giordano Bruno Guerri, scrittore, storico, presidente e direttore del Vittoriale di Gardone, ha presentato il saggio Storia del mondo dal Big Bang a oggi, dove ripercorre gli eventi più importanti dalla comparsa dell'essere umano a oggi, dai graffiti lasciati dai primi uomini nelle grotte di Altamura e Lascaux all'invenzione della scrittura alla comparsa del cristianesimo e ancora dal Rinascimento alla rivoluzione scientifica a quella francese, dalla prima guerra mondiale ai conflitti ancora in corso, fino alle nuove frontiere della tecnologia e della ricerca. Oggi, sempre alle 18.30 al Palapineta, il Teatri Stabil Furlan propone una lettura scenica in friulano con la voce recitante di Massimo Somaglino, accompagnato al violoncello dal musicista Riccardo Pes. Per questa edizione del nostro giornale radio è tutto. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia, per la parte tecnica in regia Samuel Montalto e Bruno Montevecchi. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. A risentirci per il prossimo giornale radio alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.